Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, ben trovati a Cuore e Denari, oggi in una curiosa versione telefonica. Siamo in diretta da Montepulciano in una bellissima cornice che torna ad accoglierci nell'ambito della manifestazione Luci sul Lavoro. Noi ci saremo oggi e domani, sabato mattina la diretta dell'Altra Europa di Federico Taddia. Per Cuore e Denari sarà un'occasione per approfondire alcune tematiche importanti legate naturalmente al mondo del lavoro, con ospiti che ci raggiungeranno di persona, due ne sono già qua, fra un attimo ve li presento, però non solo Nicoletta, perché anche tu naturalmente sei qui con me. Che cosa hai preparato, allora, cosa offre il piatto di Cuore? Cosa offre il piatto? Tu ti sei presa al lavoro, allora io mi tengo la luce. Quella del sole naturalmente. Nell'ultima parte della trasmissione, raccomandazioni prima di abbandonarci ai baci del sole, se quindi volete sapere tutti i segreti per regalarvi una abbronzatura perfetta, avere consigli per evitare l'eritema, le macchie solari e le rughe, se al momento di scegliere il solare siete assaliti dai dubbi e alla fine non sapete che pesci pigliare, quale protezione scegliere, restate. Tanti consigli per una pelle bella, sana e dorata. D'altronde il sole bacia i belli, quindi preparatevi. E voi che fate? Cedete o resistete? Vi aspettiamo. La sigla che ci introduce come sempre alla breve rassegna stampa che vi proponiamo ogni mattina. In realtà oggi andremo subito al cuore del tema di oggi, il lavoro, però un'occhiata alla borsa naturalmente non possiamo darla. Abbiamo un generale rimbalzo per le borse europee, con Parigi che sta salendo di quasi 2 punti, Francoforte sale dell'1,38%, Londra guadagna l'1,45%, Milano in rialzo di 1,5 punti. Per quello che riguarda i temi bancari, siamo ancora una volta con alcuni gruppi particolarmente sotto pressione. Neanche a dirlo, dopo il recupero tentato ieri, oggi torna a perdere 2,5 punti Monte dei Paschi, il Banco Popolare perde il 2%, Pop Emilia Romagna meno 1 punto, Pop Milano in ribasso dello 0,6%, mentre fra i rialzi più sostenuti oggi si ripresenta Yux Net-a-Porter, che ha lanciato un maxi piano industriale al 2020, il titolo guadagna oltre 5 punti insieme a Mediobanca più 5, Saipem, nuovi contratti in arrivo per il gruppo, il titolo in rialzo di oltre 4 punti insieme a Prysmian, poi c'è un generale rimbalzo di tutte le altre banche con, come vi dicevo appunto, l'unica eccezione di quelle che hanno la condizione più problematica di recente. Andiamo però subito al primo approfondimento, anzi all'unico approfondimento di oggi. Lavoro di noia, lavoro di fame, lavoro d'artista, lavoro normale. Allora, anche quest'anno la Fortezza d'Abasto di Montepulciano ospita la manifestazione Luci sul Lavoro, organizzata da Italia Lavoro, un'organizzazione che opera per legge come ente strumentale del Ministero del Lavoro per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, ma nell'ambito dell'organizzazione della manifestazione ci sono anche l'Istituto Eidos e il Comune di Montepulciano. L'inaugurazione ufficiale è oggi pomeriggio alle 16 alla presenza del Ministro del Lavoro Poletti, ma in realtà si inizia anche un po' prima, nel primo pomeriggio, con altre iniziative, mentre in questo momento è in corso e prende il via la cosiddetta Summer School, poi se abbiamo tempo vi raccontiamo anche che cos'è. Ogni anno un appuntamento con il quale, in un clima probabilmente un po' più disteso rispetto ai palazzi romani, si prova a fare il punto su tutto quello che si è fatto per il lavoro in Italia, in particolare per i giovani, dato che la disoccupazione giovanile continua ad essere fonte di grande per il governo del nostro paese. Ricordiamo che si viaggia su una percentuale ancora troppo alta, siamo poco al di sotto del 37% e ci riferiamo a quella fascia di popolazione di età compresa fra i 15 e i 24 anni. Molti gli eventi in programma a questa manifestazione, noi vi segnaliamo ad esempio le nuove sfide dell'alternanza scuola-lavoro, come costruire un'alleanza formativa fra scuola e impresa. Si farà poi anche un punto dell'attività della neonata ANPAL con tutta la sua rete dei servizi per il lavoro. Noi avremo il presidente del Conte domani a Cuore e Denari. C'è la consueta esposizione delle botteghe di mestiere, ma si parlerà anche per esempio di economia digitale, di patrimonio Italia, di economia sostenibile e tanto altro ancora. Il focus che facciamo però questa mattina è su un tema a cui teniamo molto, perché nella sua graduale applicazione, almeno nei primi tempi, l'abbiamo seguita molto attentamente. Parliamo di garanzia giovani, vale a dire il piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile, un programma che ha previsto finanziamenti per i paesi membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%. All'Italia sono stati destinati 1,5 miliardi di euro da investire in politiche attive di orientamento, istruzione, formazione e inserimento al lavoro a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa né inseriti inseriti in un percorso scolastico formativo, i cosiddetti NEET. Come è andata? Stamattina ce lo facciamo raccontare dal commissario straordinario dell'ISFOL, l'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori, commissario Stefano Sacchi, che è qui con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Chiediamo anche un po' di pazienza ai nostri ascoltatori, noi qua stiamo lavorando con dei ritorni anche telefonici, non ci allietano propriamente la diretta, però ce la faremo a portarla a casa, quindi se sentite anche... Se sentite esatto anche qualche così incongruenza nel passaggio tra una domanda e una risposta, sapete perché ci sta succedendo. E poi saluto e ringrazio per averci raggiunto anche la dottoressa Liliana Tessaroli, vice coordinatrice tecnica della Commissione Lavoro della Conferenza Stato-Regioni. Ho detto correttamente la carica? Perfetto. Grazie. Allora, naturalmente, come sempre, gli ascoltatori hanno l'opportunità di intervenire in diretta all'800 24 per raccontarci se sono a conoscenza magari di un giovane che gravita nella loro famiglia o magari nel nucleo degli amici che ha avuto così una garanzia giovani e se ha avuto un'offerta appunto formativa che è arrivata proprio grazie a questa iniziativa. Commissario Sacchi, la prima domanda è per lei, perché ci piace sempre spiegare ai nostri ascoltatori che sono gli interlocutori che interpelliamo sui vari argomenti che proponiamo a cuore denari. Ci fa il biglietto da visita di ISFOL, l'istituto che lei sta guidando in questo momento, tra l'altro commissario straordinario, già questo ci lascia immaginare che l'istituto sta vivendo una fase di riorganizzazione, quantomeno di transizione. Certamente, l'ISFOL è un ente nazionale di ricerca sui temi, sulle politiche sociali della formazione e del lavoro, è stato creato nel 1973, quindi insomma ha oltre 40 anni di vita e impiega 600 tra ricercatori e dipendenti. Dicevo, è un ente nazionale di ricerca sui temi delle politiche sociali della formazione e del lavoro. Quindi svolge attività di ricerca, di monitoraggio, di valutazione su tantissimi ambiti. Politiche sociali, immaginate le politiche di genere, le politiche di invecchiamento attivo, le politiche per la disabilità e adesso insomma anche in congiunzione con gli interventi del governo a riguardo, le politiche di contrasto alla povertà. Sul lavoro, monitoraggio di garanzia giovani, che è ciò di cui parleremo esatto. Oggi. C'è un super rapporto che ci spiega proprio cosa è successo in questi due anni che avete presentato di recente, oggi pomeriggio viene ripresentato di nuovo qui a questo evento di Montepulciano, quindi insomma anche lì un'attività di monitoraggio molto stretta sul programma. Certo, molto intensa. È stato presentato con il Ministro del Lavoro due settimane fa e verrà discusso oggi con le regioni, che sono poi i soggetti istituzionali che attuano il programma Garanzia Giovani, nell'anteprima del festival che avrà luogo alle 14. Dicevo, monitoraggio Garanzia Giovani ovviamente non solo, tanti studi sul mercato del lavoro italiano in chiave comparata, ma anche banche dati. ISFOL costruisce, gestisce e diffonde a tutti, diffonde, dissemina, ma anche come dire, aiuta enti di ricerca o studiosi, università a utilizzare alcune delle banche dati sul lavoro più importanti del nostro paese. E poi il tema della formazione, che è il tema storico dell'istituto, anche qui immaginiamo l'alternanza scuola-lavoro, l'apprendistato, la formazione continua, che è quella che fanno le imprese sul lavoro, e la formazione professionale. Quindi molte cose. Dicevo, l'enfasi è sull'analisi delle politiche. Lei correttamente diceva, c'è in essere insomma un cambiamento dell'istituto, sempre più sempre maggiore enfasi su tutto il ciclo delle politiche, che vuol dire anche essere utile ai decisori pubblici, al governo in primo luogo, ma alle regioni e altri decisori nella fase di formulazione, cioè di disegno delle politiche. Commissario, ci dobbiamo fermare perché noi adesso abbiamo la nostra prima pausa, c'è il traffico in collegamento da Milano, poi andremo nel vivo di Garanzia Giovani perché vogliamo raccontare cosa è successo in questi due anni, visto che ci sono stati anche molti detrattori di questo programma, a fianco anche però di molti sostenitori e di molte esperienze che ci vengono anche raccontate in radio, molto spesso noi ne sentiremo una, di chi invece è riuscito ad attivarsi in maniera appunto con successo, con Garanzia Giovani, e quindi ha portato a casa il risultato che poi tutto l'impianto del programma si prefiggeva. Ci fermiamo solo per un attimo. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Cuore e denari. Noi siamo i giovani più giovani. I giovani a cui è dedicato quasi interamente il festival Luci sul Lavoro, in corso, prende via oggi a Montepulciano. Siamo in diretta dalla Fortezza d'Avassa stamattina con Cuore e Denari e noi siamo già immersi pienamente nel primo tema di oggi, lavoro e giovani, Garanzia Giovani. Per qualcuno un flop, per altri invece un grande successo. A microfoni stavo raccontando proprio i nostri, delle persone che conosco e che sono state assunte da alcune aziende per questa iniziativa, prima con la registrazione, la presa in carico, poi un rapporto di lavoro che sta diventando stabile con le aziende. Con noi il l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, commissario Stefano Sacchi, e poi sentiremo adesso anche Liliana Tessaroli, vice coordinatrice tecnica della Commissione Lavoro della Conferenza Stato-Regioni, perché le regioni hanno avuto un ruolo determinante funzionalmente nella piena attività di questo programma. Prima di fare tutto questo però chiedo ai miei ospiti di sentire questa bella testimonianza di un imprenditore di Caltanissetta che, del tutto inconsapevole del fatto che noi eravamo pronti a venire a Montepulciano, sua spontanea iniziativa, ci ha scritto questa mail nei giorni scorsi. Io non me la voglio leggere perché voglio che lui dalla sua viva voce ci racconti che cosa gli è successo. Giacomo, buongiorno. Buongiorno signora, buongiorno a tutti. Sono Giacomo Fiocchi, vi parlo da Caltanissetta, vi vorrei raccontare questo episodio che coinvolge me e Veronica. Sì. Veronica è una ragazza che è poliedrica, ha fatto mille cose, c'ha una laurea e nell'estate dell'anno scorso io ho saputo del discorso di Garanzia Giovani, mi sono messo in giro perché gestisco un piccolo affittacamere, una piccola attività di affittacamere, e volevo dare l'opportunità ad una giovane di incrementare soprattutto sul piano dell'afflusso turistico a Caltanissetta. E mi sono rivolto all'agenzia per l'impiego, dove ho trovato dei funzionari disponibilissimi, mi hanno dato uno skill di 10-12 nomi e si è presentata Veronica. Veronica mi ha fatto subito... Non aveva nessuna competenza per questo settore, io purtroppo le devo chiedere di sintetizzare, Giacomo. Non aveva nessuna competenza, ma è stata una macchina da guerra per lei, si è messa in gioco pienamente. Assolutamente sì, visto che è importante non tanto il sapere quanto il volere apprendere nell'attività imprenditoriale. Lei ce l'ha messo tutta. In due mesi è riuscita a gestire autonomamente la struttura, che peraltro, ripeto, è piccolina, però è interessante. Si è inventata i giri turistici per i clienti che volevano farli, si è inventata la pagina Facebook, si è inventata la gestione di TripAdvisor e di altri social media. Insomma, la cosa interessante, ripeto, al di là della competenza, parlicchia un po' d'inglese, che non è male, insomma, la cosa interessante è la voglia di fare. Se mettiamo delle buone leggi, un centro per l'impiego che funziona, perché a casa ne sei. L'altro grande tema di Garanzia Giovani ha colto proprio nel vivo. Giacomo, io devo salutarla. La sua mail la metterò su Facebook, in qualche maniera la metterò appunto a disposizione magari tutte le persone che sono più interessate, che sono interessate a tutta la sua storia intera, ma volevo subito sentire un commento dei nostri ospiti, perché tra un po' chiude anche la prima parte del programma, poi ritorniamo dopo le 11. Liliana Tessaroli, cosa ci racconta il caso di Giacomo appunto da Caltanissetta? Chi è che è stato particolarmente bravo in questo caso? Il centro per l'impiego funzionante, laddove invece in molti centri per l'impiego in Italia vengono contestati per come lavorano e quant'altro? Vado subito a mettere a girare un coltello in una piaga, insomma, che ne pensa? Beh, sono convinta che in questo caso non ci sia una parte più brava dell'altra. Sicuramente c'è stata una sinergia molto positiva. Da una parte il signor Fiocchi, che ha creduto nei giovani e si è affidato ai servizi per lavoro, senza ricorrere a segnalazioni di parenti o amici, e dall'altra parte la proattività di Veronica, perché Veronica ha saputo andare al di là del suo percorso formativo. Lei ha le caratteristiche che un giovane, secondo me, dovrebbe avere al giorno d'oggi. È stata aperta e flessibile, e nonostante la proposta iniziale non fosse coerente col suo percorso di studio, non si è preclusa niente. Cioè, ha affrontato la sfida, e mi sembra che questa sfida Veronica l'abbia vinta. Inoltre noto veramente con molto piacere le parole positive sui servizi del signor Fiocchi, che smentisce un po' quella che è l'opinione pubblica sui nostri servizi. Esatto. Ci torniamo su tutto questo dopo il giornale radio, quindi restate con noi, a tra poco. Tutti i giorni, dalle 14 alle 15.30, il professor Genta e il professor Pardo, tutti convocati. Tutti convocati, sempre. Un'ora e mezza, un'ora 90 e mezza. Minuti, il tempo di una partita, grande entusiasmo, ottimismo. Sempre su Radio 24, la passione si sente. Una settimana d'allenamento, poi la domenica ancora tutti convocati per il processo a caldo dei grandi eventi sportivi europei, olimpiadi, Valentino Rossi, la Ferrari, quest'estate nessuna pausa. Sono Giovanni Capuano e tutte le domeniche vi aspetto dalle 17 alle 19. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Che cos'è l'Olimpo? Perché è importante fare sport? Come ci si prepara a un'Olimpiade? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Sono Federico Taddia e vi aspetto a Terra in vista le Olimpiadi spiegate a mio figlio, insieme al filosofo della scienza, Telmo Pievani. Il mito, la vittoria, il limite, la corsa, ogni puntata una parola per raccontare lo spirito olimpico. Terra in vista, ogni domenica alle 9. Perché l'importante non è vincere, è ascoltare. Cuore e denari. Sono precario, lo so, quello che posso darti amore ti darò. Senza il tema del lavoro italiano. Il precariato si lamentano naturalmente molti giovani, molti invece sono molto attivi, vanno a caccia delle opportunità, cercano di capire anche come potersi informare per individuare le opportunità di lavoro che sono presenti nel nostro mercato, che ancora naturalmente fatica, ma cerca, probabilmente qualcuno trova. Abbiamo sentito anche una bella esperienza prima dell'interruzione per il giornale radio, che è arrivata addirittura da Caltanissetta. Il tema è oggi, dalla Fortezza d'Abasso di Montepulciano, fare un punto su Garanzia Giovani, questo programma europeo che ha consentito di mobilitare risorse per l'Italia per 1,5 miliardi di euro. Come? Questa mattina ce lo stanno spiegando i nostri ospiti, il commissario straordinario dell'ISPOL Stefano Sacchi e Liliana Tessaroli, vice coordinatrice tecnica della Commissione Lavoro della Conferenza Stato-Regioni. Ovviamente, se volete, avete ancora qualche minuto di tempo per intervenire in diretta all'800 24 00 24. Allora, commissario Sacchi, il Ministero del Lavoro pubblica ogni settimana un report sul numero di ragazzi che si iscrivono al programma e sul numero di ragazzi che vengono poi presi in carico dalle agenzie per l'impiego e riescono appunto a trovare un'opportunità di formazione e di lavoro sul territorio italiano. Ho sintetizzato al massimo il succo del programma Garanzia Giovani. ISFOL ha pubblicato invece un rapporto che racconta i 2 anni di Garanzia Giovani. Cosa avete scoperto? Avevamo un bacino potenziale di giovani che potevano essere raggiunti da questo programma di 1.723.000 ragazzi. Di questi, appunto, che cosa abbiamo scoperto? Certo, mettiamo in fila un po' di dati, che è il modo corretto di accostarci a questa questione, che è stata teatro di guerre e di religioni. L'approccio corretto è quello empirico, dare i dati, che è esattamente quello che fa ISPOL, poi ciascuno li interpreta. Allora, i dati sono che questo bacino potenziale, circa 1.980.000 sono i giovani che sono stati registrati all'interno dai centri per l'impiego all'interno di Garanzia Giovani. Questo fa sì che la copertura della platea potenziale sia di quasi il 60% nell'arco dei 2 anni. Di questi 980.000, dicevo quasi un milione, che sono stati registrati, che si sono registrati al portale di Garanzia Giovani, da questi dobbiamo poi togliere quelli che poi non si sono presentati ai centri per l'impiego e che hanno deciso di uscire dal programma, ne restano circa 850.000. Di questi 850.000 registrati, ne sono stati presi in carico 630.000. Quindi, di nuovo, da circa un milione di registrati sul sito di Garanzia Giovani, con una copertura della platea potenziale del 60%, 850.000 che si sono poi hanno confermato, diciamo così, la loro volontà di entrare nel programma, ne sono stati presi in carico 630.000, cioè circa il 74%, da una percentuale del 50% nel 2014. Questo ci dice, e noi notiamo, che diciamo ci sono andamenti dei miglioramenti progressivi, e questo lo notiamo nel programma Garanzia Giovani su tutte le dimensioni rilevanti, cioè c'è stato un miglioramento progressivo nel tempo anche e in particolare delle regioni del sud che partivano da una posizione di grande svantaggio. Anche perché non ci dobbiamo dimenticare che la platea appunto di interesse potenziale per questo programma era per molti aspetti anche molto difficilmente raggiungibile, no? Certe figure, in particolar modo un giovane di 15 anni che non è impegnato né a scuola, in un programma formativo, in un programma di lavoro, vallo a pescare per dargli l'informazione e dirgli iscriviti a Garanzia Giovani, quindi consideriamo anche questo aspetto. Certamente, appunto parte quanto appena detto spiega anche quello che viene dopo, cioè di questi 630.000 presi in carico poi circa 265.000 sono stati effettivamente avviati a un intervento di politica attiva, da 630.000 a 265.000. Alcuni presi in carico non hanno ritenuto di continuare, altri hanno trovato un'occupazione per i fatti loro. Di questi 265.000 avviati, circa 200.000 hanno effettivamente concluso un intervento, e di questi 200.000 che hanno concluso un intervento avviato, 75.000 hanno trovato un'occupazione di lavoro dipendente. Dobbiamo però considerare, cioè circa il 38%, dobbiamo considerare che non vediamo nei dati quei lavoratori che a seguito di un intervento di Garanzia Giovani hanno avviato, diciamo, un'attività in proprio, che pure era una dei possibili esiti del programma, anzi incentivati, e soprattutto lei citava i giovani più giovani, cioè quelli tra 15 e 24 anni, che era il target iniziale della Commissione europea. L'Italia poi ha deciso di estendere la platea ai giovani con meno di 30 anni, cioè fino a 29 anni. Allora, tra 15 e 24 anni ci si può aspettare che gli interventi servano soprattutto a reinserire i giovani in percorsi formativi o educativi. Quindi, quando consideriamo 75.000 occupati, in realtà non abbiamo il panorama completo, non abbiamo i dati purtroppo, speriamo di averli per la prossima versione del rapporto di monitoraggio, dicevo, dovremmo considerare soprattutto nella fascia d'età 15-24 quanti sono tornati a scuola o hanno intrapreso percorsi di formazione professionale. L'ultimo punto fondamentale, ma davvero fondamentale, è che questo tasso di inserimento lavorativo, cioè il successo degli interventi del programma Garanzia Giovani per quanti hanno concluso un intervento, è quasi il doppio dell'inserimento lavorativo per i giovani che si sono sì registrati al programma, ma poi non hanno intrapreso un intervento. Questo vuol dire che il programma Garanzia Giovani funziona. Allora, ci sarebbero veramente tanti aspetti da considerare. Quello che a me piacerebbe fare adesso intanto è così chiarire un po' alcuni concetti che sono stati espressi dal commissario Sacchi, che magari richiedono anche di essere spiegati a beneficio degli ascoltatori che di questo programma avevano sentito parlare relativamente. Il tema della presa in carico, cosa succede? Vengono portati in braccio da qualche parte questi ragazzi, e quindi che cosa vuol dire appunto proprio questo concetto, questo istituto? Prima vi faccio sentire un'altra telefonata, che è quella di Alessandro dalla provincia di Foggia, perché invece dice che insomma ha provato ad attivarsi con Garanzia Giovani, quantomeno sua sorella Alessandro, ma com'è finita? Pronto? Sì, ci siamo. Sì, niente, è solo che Garanzia Giovani a un certo punto serve solo a dei raccomandati, perché nella provincia di Foggia va avanti anche così, e quindi non si riesce a fare niente. Senta, Alessandro, c'è scritta sua sorella, non l'hanno mai chiamata da nessun centro per l'impiego per fare una chiacchierata con lei per capire come e che cosa avrebbe potuto fare? No, non l'hanno ancora chiamata. Da quanto si è iscritta? Dall'anno scorso. Da un anno. Anche per capire i tempi, quali sono, se sono differenti a seconda del territorio in cui si ha la fortuna o sfortuna di abitare, non lo so, perché purtroppo anche quello è un tema importante. Alessandro, la ringrazio. Dottoressa Tesseroli, la affido a lei questa domanda un po' scomoda, non sarà la prima testimonianza non positiva che ascolta, saranno diffuse. Quanto tempo deve passare tra l'iscrizione al programma e appunto la presa in carico di cui ci parlava poco fa il commissario Sacchi? Allora, se tutto va bene, quindi il ragazzo fa l'iscrizione tramite il portale, conferma in seguito una invio di una mail, di una user ID e quindi conferma la registrazione di volersi appunto partecipare a questo programma, se tutto va bene da quel momento passano circa 60 giorni massimi per la convocazione da parte di un centro per l'impiego oppure o di un servizio per l'impiego per il primo colloquio di diciamo di presa in carico di orientamento. Tenga presente che però questo era diciamo all'inizio, quando siamo partiti a maggio 2014, il termine è stato più vicino ai 60 giorni che non diciamo di meno, mentre ultimamente per esempio io nella regione Lazio le performance arrivano intorno a 15-20 giorni, il ragazzo viene chiamato da quando viene registrato. Quindi io suggerisco al nostro ascoltatore Alessandro che qualora si verifica una situazione di questo genere bisogna iscrivere sicuramente alla regione ma anche ai servizi, insiste, perché vuol dire che qualcosa a livello informatico non ha funzionato. Chiaro. Quindi allora prima proprio di parlare addosso a tutto l'istituto e parlare del solito istituto della raccomandazione, invece magari Alessandro appunto vada a verificare. Poi se deve lamentarsi ci scriva lo stesso, perché noi ormai abbiamo trovato gli interlocutori con i quali possiamo sfogarci e gireremo anche la sua contestazione. Però come dicevo, dottore, appunto non sarà stata la prima esperienza che non è andata a buon fine. È chiaro che qua se c'è tutto un apparato tecnologico che gestisce tutto il meccanismo è anche facile che si possa verificare qualche dispersione. Lei è soddisfatta di come hanno lavorato le regioni, visto che è coordinatrice tecnica appunto di questa commissione? Dove hanno funzionato meglio, dove si sono verificate anche proprio le pratiche più virtuose in Italia per Garanzia Giovani? Beh, i dati che il commissario ha rappresentato sono sicuramente dei dati positivi, perché sono, ma se i servizi riescono ad raggiungere circa il 60% di chi si iscrive, è sicuramente un dato molto positivo. Cioè Garanzia Giovani ha veramente posto molte sfide sia alle regioni che ai centri per l'impiego. I centri per l'impiego devono, cioè ci sono ancora tanti margini di miglioramento, come tutte le cose che partono in maniera sperimentale, quindi sicuramente possiamo migliorare. Però hanno dimostrato, secondo me, in questo programma, nella gestione di questo programma, una grande capacità di risposta rispetto all'utenza. Tant'è che anche dal monitoraggio di ISPO si vede che i giovani sono abbastanza soddisfatti. I casi di ragazzi che hanno lamentele ci sono, come in tutte le situazioni, però veramente tante volte basta che il giovane si attivi leggermente di più e chieda un riscontro. Cioè, tutto sommato, il programma Garanzia Giovani quello che chiede è la proattività del NIT, no? Quindi se il giovane, al di là di essere chiamato, magari se qualche volta fa un atto proattivo verso il servizio, verso l'istituzione, affinché abbia diritto a quello che è previsto da Garanzia Giovani, mi sembra una ottima cosa. Allora, io adesso devo salutarvi perché abbiamo la seconda parte del programma, gli ultimi 30 secondi li affido ad entrambi solo per raccontarmi, entrambi per le rispettive competenze che avete, qual è a questo punto il prossimo step del programma, il prossimo obiettivo nell'immediato da raggiungere, i NIT che minimamente non sono ancora a conoscenza dell'esistenza di questa iniziativa, quanto potrà ancora andare avanti e se è possibile appunto stabilire se questo 1,5 miliardi di risorse disponibili appunto deve ancora essere terminato appunto di distribuire, tutto sommato a chi andavano poi questi soldi, commissario Sacchi? Sì, soprattutto diciamo a tirocini per quanto riguarda le misure, che è un aspetto che è stato insomma dibattuto sui media. Il 65% dei presi in carico, il 70% degli occupati hanno avuto come misura di garanzia giovani, come intervento di garanzia giovani, un tirocinio extracurricolare. Ora, in realtà i tirocini hanno degli esiti occupazionali, cioè dopo aver svolto un tirocinio, in una percentuale simile, diciamo, alla media degli interventi di garanzia giovani, i giovani hanno ottenuto un'occupazione. Quindi, insomma, non è una garanzia giovani, non è in sé una fabbrica di tirocini che non portano a nulla. I tirocini portano a un'occupazione nella stessa misura, diciamo, degli altri interventi. Certo, però, che se questa enfasi sui tirocini è stata legittima, diciamo, da parte delle regioni in una prima fase, perché mettere in piedi, ma ce lo spiegherà la dottoressa Tessaroli, credo, mettere in piedi delle misure più elaborate di politica attiva richiede capacità istituzionali che in molte parti d'Italia non erano semplicemente disponibili all'inizio, e quindi si è detto ok, facciamo tirocini, che è la cosa più semplice. Adesso occorre certamente un salto di qualità. In particolare, probabilmente, investire sull'apprendistato. Per questa classe di età ha molto senso investire sull'apprendistato. Ha molto senso che se ne parli soprattutto qui in questa manifestazione, a Luci sul Lavoro qui a Montepulciano. Allora, noi abbiamo terminato, però volevo solo segnalarvi che c'è un ascoltatore che lamenta il fatto che i fondi erogati spesso non vengano dati al lavoratore nei tempi prestabiliti, quindi anche questo aspetto magari lo vuole già commentare, dottoressa Tessaroli? Sì, cioè dei ritardi appunto anche nei pagamenti avviene, perché io vi racconto l'esperienza proprio che ho visto io la documentazione. Tante volte il giovane, per esempio, si dimette di mettere o la firma o la data. Cioè, queste sono piccole cose per cui un ufficio amministrativo non può mandare avanti la pratica se mancano questi elementi. Allora bisogna contattare il giovane. Nel momento in cui si va a contattare il giovane bisogna avere l'email e bisogna che il giovane risponda all'email. Quindi ci sono delle cose che effettivamente creano un po' di problemi. Però, vi ripeto, tutte le regioni, questo ve lo garantisco, hanno messo un servizio di risposte agli utenti. Quindi utilizzate questo servizio e chiamate le regioni e i centri per l'impiego, insomma. Attivatevi, lo spirito del programma è particolarmente soprattutto questo. Grazie al commissario dell'ISPOL Stefano Sacchi, straordinario, e grazie alla dottoressa Liliana Tessaroli, vice coordinatrice tecnica della Commissione Lavoro della Conferenza Stato-Regioni, una trasmissione che ha avuto un approccio anche molto pratico, Nicoletta, come piace a noi di Cuore e Denari, per cui non mancherò naturalmente di tornare a coinvolgervi. Mi piacerebbe una volta fare una trasmissione dal punto di vista del datore di lavoro e questo istituto, perché anche lì si aprirà, mi immagino, un'altra partita interessante. Grazie ancora e buona giornata. Abbronzatissima sotto i raggi del sole, com'è bello sognare. Allora, se siete già abbronzati, se sapete già tutto sul sole, chiamateci 800 24 00 24 per darci i vostri consigli, ma come la maggior parte delle persone sapete molto ma non tutto, e quindi avete bisogno di qualche indicazione in più, restate con noi. Intanto salutiamo la dottoressa Delle Sparavigna, dermatologa a Milano e a Monza, che ci accompagnerà in questi ultimi minuti di trasmissione. Dottoressa Sparavigna, buongiorno. Buongiorno. Dottoressa Sparavigna, partiremo dai benefici del sole, parleremo di vitamina D, ma soprattutto lei ci aiuterà a scegliere il solare giusto per noi, ma non basta scegliere quello giusto, bisogna anche applicarlo nel modo giusto e nella quantità giusta ed eventualmente rinnovarlo. Darei subito la linea a Deborah per i mercati e poi facciamo una filata fino a chiusura della trasmissione, perché ormai siamo abbastanza ridosso, non so se i tuoi mercati sono rosseggianti, se hanno preso l'eritema o quant'altro. Dottoressa Sparavigna, intanto poi daremo anche consigli a chi nello scorso weekend magari ha esagerato un po' e si ritrova un po' ancora coperto di pustoline e arrossamenti, ma lei ci aiuterà a capire, dato che il tempo è poco, i soldini anche, come dice Deborah, scarseggiano sempre, quindi le vacanze si riducono, si restringono. Noi vorremmo farci un weekend regalandoci un po' un colorito dorato, nello stesso tempo, no, cercare di proteggere bene la pelle. Quindi tutte queste informazioni, a partire soprattutto anche dalle vostre domande, dalle vostre richieste, dopo i mercati, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta cuore e denari. Sei diventata nera, nera, nera, sei diventata nera. Il sole bacia i belli e chi ascolta Cuore e Denari è per definizione bello, ma se i baci sono troppo appassionati possono lasciare il segno, ma questo si può evitare. In diretta da Montepulciano, in cui si svolge la quinta edizione di Luci sul Lavoro, manifestazione dedicata al mondo del lavoro organizzata da Eidos, Italia Lavoro e dal comune di Montepulciano, parliamo anche degli effetti della luce sulla nostra pelle. Ci accompagna la dottoressa Adele Sparavigna, dermatologa a Milano e a Monza. Dottoressa Sparavigna, non è un segreto, il sole ci piace e ci fa anche bene, l'umore senza dubbio ci guadagna, perché quando ci lasciamo baciare dal sole aumenta la produzione di quello straordinario antidepressivo naturale, la serotonina, che agisce proprio sul controllo dell'umore, ma non è l'unico vantaggio. Il sole ci fa belli e ci fa anche sani. Il segreto sta nella vitamina D, nota anche come vitamina del sole, perché è proprio grazie al sole che il nostro corpo, attraverso la pelle, è in grado di sintetizzarla e produrla. E tra l'altro di questa vitamina si continuano a scoprire nuovi interessanti benefici. Dottoressa Sparavigna. Sì, buongiorno. La vitamina D ha benefici a 360 gradi sul nostro organismo, perché oltre a regolare il metabolismo del calcio e quindi un corretto funzionamento dell'apparato osteoarticolare, è anche responsabile di una immunomodulazione, in altri termini ostacola l'autoimmunità e quindi la comparsa delle malattie autoimmunitarie, ostacola i processi di infiammazione, quantomeno quelli di infiammazione molto spinta, e anche addirittura protegge contro il cancro. Ma dottoressa Sparavigna, una domanda. Allora, se è vero che noi, il nostro corpo attraverso la pelle sintetizza, no, questa vitamina del sole, la vitamina D, se noi copriamo, proteggiamo la nostra pelle con un filtro, con una crema per solare, questa, la nostra pelle riesce ugualmente a sintetizzarla o la perdiamo? Se la protezione solare è eccessiva anche per il nostro tipo di pelle, certamente rischiamo di non sintetizzare abbastanza vitamina D. E non dimentichiamo che noi abbiamo anche nelle grandi città il problema dell'inquinamento, che fa ancora di più da filtro tra noi e l'ultravioletto. Quindi è molto importante imparare a modulare questo rapporto tra sole e vitamina D. Concretamente, dottoressa Sparavigna, che ne possiamo fare? Concretamente la letteratura scientifica internazionale raccomanda di trascorrere almeno mezz'ora al giorno all'aperto, non necessariamente al sole, con la cute scoperta, quindi maglietta e pantaloncini, e quella mezz'ora, senza doversi esporre in maniera diretta ma all'aperto, trascorrerla ogni giorno. Questo ci serve sia per il nostro organismo adesso, ma anche per le riserve di vitamina D per l'inverno, perché noi la immagazziniamo. Senta, l'ora migliore in cui esporsi per salvare la pelle e salvare soprattutto, dare la nostra pelle l'opportunità di, a contatto con il sole, di sintetizzare la vitamina D, quali sono le ore prima, le prime ore del mattino? Le prime ore del mattino o le tardi ore del pomeriggio. Ecco, quindi non sotto il solleone. Si può andare a fare jogging, ecco, non sotto il solleone. Si unisce, si unisce l'utile e il dilettevole, ci si abbronza muovendosi. Tra l'altro, a proposito dell'ora in cui ideale, in cui esporsi o le ore da evitare, c'è una regola che è molto raccomandata anche dai dermatologi americani, si chiama la regola dell'ombra. Se la conoscete e volete chiamare per spiegarci, 800 24 00 24 è un'indicazione molto pratica che può, però può esserci molto utile. Dottoressa Sparavigna, pensiamo di sapere tutto sul sole, ma poi alla fine, quando dobbiamo scegliere il solare giusto, tentenniamo un po'. Allora, intanto dobbiamo iniziare a dire che i raggi solari non sono tutti uguali, ci sono raggi e raggi, gli UVA e gli UVB. E sono differenti e penetrano in modo differente. Iniziamo proprio da qua. Quali sono le informazioni utili che dobbiamo sapere? Allora, i raggi ultravioletti si definiscono in base a due caratteristiche. Una è l'intensità, e quindi sì, la potenza della radiazione, e un'altra è la lunghezza d'onda. Sì. Le due cose sono inversamente proporzionali. Quindi le radiazioni più potenti e più aggressive hanno una lunghezza d'onda minore, quindi penetrano meno nella pelle, e questo è il caso degli UVB. Quindi gli UVB ci fanno venire l'eritema. Sì, che ci fanno venire l'eritema. Mentre invece l'UVA è caratterizzato da una potenza, da un'intensità minore, ma da una lunghezza d'onda maggiore e quindi riesce a penetrare più profondamente nella pelle e a creare danni più che altro cronici. Quindi noi possiamo avere dei danni, dei problemi a breve, a medio e a lungo termine a seconda dell'azione degli UVA o degli UVB. A proposito, sì. Abbiamo detto che gli UVB sono quelli responsabili di quel rossore che in alcune persone è veramente molto fastidioso, si associa a prurito. Noi lo chiamiamo eritema, dottoressa Saravigni, è corretto chiamarlo così o ha un nome specifico? No. Allora, per chi si è scottato sabato scorso, domenica, nel weekend, perché la voglia di sole e di abbronzatura lo sai tanto e tra poco lei ci dirà che cosa fare in un weekend al sole, che cosa si deve fare? Ci sono dei rimedi, una sorta di pronto soccorso e poi ci si può esporre nuovamente al sole o bisogna aspettare che tutta la pelle sia ritornata normale? Bisogna senz'altro agire in senso lenitivo e sì. I prodotti che sono sul mercato con questa caratteristica sono veramente tanti. Si agisce in senso più che altro antiossidante, antiradicalico, quindi i prodotti contenenti la vitamina C, la vitamina E, contenenti flavonoidi, sono tutti prodotti in grado di lenire questa infiammazione che è dovuta ad una improvvida esposizione. Bisogna ricordare, questo è molto importante, l'amido, dottoressa Sparavigna, questi rimedi della nonna con cui ci si attrezza un po' quando magari si è fuori in mancanza casa. Mancanza d'altro va bene anche quello, quindi bisogna soltanto avere un po' di buon senso. Per esempio, una volta si utilizzava il lattice della pianta di fico per abbronzare di più e abbiamo visto tutti nei pronto soccorsi ospedalieri questo non fatelo, mai. Quindi questo lo dico per sottolineare il fatto che se una cosa è naturale non deve essere per forza benefica. Utilizzare un rimedio per sentito dire è non meglio, va bene evitarlo. Sì. Ecco. Dottoressa, sì, mi dica. Io direi la cosa più importante è che questa esposizione intermittente, come quella del weekend di cui lei parlava, è veramente più deleteria di un'esposizione che avviene in maniera più prolungata nel tempo. Quindi bisogna essere particolarmente attenti e con questo non vuol dire che non ci si abbronzi. Bisogna adottare una condotta diversa. Allora, dottoressa Sparavigna, dato che insomma il weekend, quando e se possiamo permettercelo, è quello, no? Il tempo è a nostra disposizione è breve, il sole c'è, vogliamo prenderlo, andiamo subito al weekend così prepariamo gli amici che stanno accarezzando l'idea di partire o venerdì o sabato, poi l'Italia è lunga, ci sono anche tante persone che hanno la fortuna di vivere vicino al mare, ma dottoressa Sparavigna, andiamo il primo weekend al mare, quali sono le attenzioni e le precauzioni da adottare? Ovviamente in base al grado di pigmentazione della propria pelle, perché dobbiamo ricordare che la legge del sole non è uguale per tutti, in base al grado di pigmentazione scegliere fattore di protezione relativamente alto. Riferisco alla propria pelle. Quindi fototipo chiaro, chi ha la pelle chiara, i capelli chiari, certamente, gli occhi azzurri e verdi, ecco, sono molto carini, però si tocca prendere quello con la protezione molto alta. Ma quando voi dite molto alta, non vi accontentate mai, dermatologi cari, 30, 50, quanto ne dobbiamo, alta quanto? Molto alta per noi è il 50, è il 50 più. Quindi, ecco, così rispondiamo ad un nostro ascoltatore che ci scrive via SMS, anzi in realtà è un'ascoltatrice, ma come fate a raccomandare una protezione 50 quando le persone poi sanno che vogliono abbronzarsi? Insomma, con la 50 non ci si abbronza, si lamenta la nostra ascoltatrice. Non è vero, allora non bisogna avere fretta, nel senso, se io vado a fare il weekend e utilizzo una protezione alta per quello che è il mio grado di pigmentazione, non devo aspettarmi di tornare a lunedì già abbronzata. Perché quel fenomeno a breve termine non è mai dovuto a una sintesi di melanina, al massimo è dovuto ad una ossidazione della melanina già presente nella pelle, ma quindi che non tutto è protettiva, falso. È falso. Mm. È la stessa abbronzatura che danno le lampade a UVA. Non è una vera abbronzatura, è soltanto un'ossidazione di una melanina già presente nella pelle che non è più protettiva. Quindi, ecco, quel colorito che vogliamo sfoggiare con gli amici per dire siamo andati al mare, ecco, quello che toglie un po' il grigiore cittadino, ma non è abbronzatura. Ecco, non è abbronzatura, mentre invece se vogliamo fare le cose come si deve, dobbiamo sapere che ci esponiamo con una protezione alta, non esiste una protezione totale, per cui noi comunque andiamo sotto l'azione dei raggi ultravioletti e questa azione dei raggi ultravioletti determinerà una sintesi di nuova melanina, ma questa sintesi di nuova melanina noi non la vediamo prima di 7-10 giorni dopo la prima esposizione, solamente avere un po' di pazienza. Quindi, insomma, anche la melanina ci mette un po' per mettersi al lavoro, a proposito di lavoro. Dottoressa Sparavigna, intanto invitiamo i nostri ascoltatori a rispondere se al nostro domandone, se riconoscete, se sapete la regola dell'ombra che viene suggerita per così sapere bene in quale ore esporsi e in quale invece ritirarsi, non dico proprio sotto l'ombrellone perché i raggi arrivano anche lì, ma mettersi proprio, come dice il nome di questa regola, all'ombra, e anche di raccontarci che effetto fa il sole sulla loro pelle. Abbiamo parlato di eritemi, ma ci sono tante ascoltatrici che ci scrivono perché vogliono evitare di tornare dalle vacanze con qualche ruga in più, e poi ci sono le macchie. Insomma, abbiamo aperto la nostra puntata sottolineando i vantaggi, sono tanti del sole, ma dobbiamo proteggerci adeguatamente senza rinunciare al piacere che l'esposizione solare sa regalarci per tante cose, ma dobbiamo anche proteggere la nostra pelle per non poi pagare un prezzo troppo alto al ritorno. Se volete intervenire, se volete raccontarci, come ha iniziato subito a fare un nostro ascoltatore che lamenta delle piccole macchie bianche su braccia, gambe, cosa fare, anche un'ascoltatrice Titti, noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade, magari qualcuno di voi sta proprio regalandosi un weekend lungo al mare, che ci chiami, e ritorniamo subito dopo con i consigli della dottoressa Sparavigna per un weekend, le cose da fare. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Cuore e denari. Ma basterà un gatto solo, e coccherà una gatta vera prigna. Andiamo al mare, ma possiamo anche andare in montagna. In queste ultime minuti di trasmissione parliamo di sole e ripassiamo insieme alla dottoressa Sparavigna, dermatologa a Milano e a Monza, le regole di una corretta protezione, ma anche la dottoressa Sparavigna ci darà anche qualche segreto. Dottoressa Sparavigna, allora, la famosa protezione a 50, lei ci ha spiegato bene che non è il fattore di protezione alto, non ci impedisce di abbronzarci, e che l'abbronzatura vuole il suo tempo, 6 o 7 giorni perché il colore sia davvero quello vero, come si dice. Ma prima di darci le regole per il nostro weekend, perché la pelle va preparata, abbiamo in linea con noi Domenico che ci chiama da Roma. Buongiorno Domenico. Buongiorno dottoressa, senta, io ho un problema da circa 20 anni, io ora ho 67 anni. Sì, in pratica, ha messo un po' di tempo ad accorgersene, 20 anni che ha questo problema, meno male che siamo arrivate noi, Domenico. No, il discorso è che io scherzo. Comunque tutti gli anni provo a cercare di non farmi del male, comunque dove mi espongo, maggiormente sulle braccia e dietro al collo, mi si formano delle palline bianche sotto pelle che poi cominciano a darmi un prurito in modo... Come se fosse un po' allergico, tra virgolette, perché sennò la dottoressa Sparavigna mi bacchetta, perché ogni parola va soppesata anche nel campo della salute, ma è come se Domenico fosse un po' allergico ai raggi solari. Dottoressa Sparavigna, che cosa possono essere? Come si fa a evitare questo problema? Intanto che colore di capelli ha o aveva, colore degli occhi il cartagione. La dottoressa Sparavigna mette anche in conto che li abbia aperti. Dottoressa, magari invece c'ha un testone di capelli pazzesco. O magari sono allora, bianchi, Domenico, ci mandi una sua foto. Intanto, Domenico? Sì, pronto? Sì. È già andato a prendere il sole, Domenico. No, no, sia no, lì che così... A chi lei la Chiara? Che le dà io, qualche dunque, consiglio? Io guardi, ho in pratica i capelli chiari, castani, e gli occhi verdi. Sono bianco come carnagione. E poi questa manifestazione avviene alle prime esposizioni soltanto o sempre? Sempre nel periodo estivo. Pensi che io quando mi viene il prurito... Scusi, noi non possiamo... Grazie. Io penso che la dottoressa Sparavigna, così diamo anche spazio agli altri, se no diventa. Poi semmai ci scrive e le indicazioni no, proprio era precise. Solamente per distinguere tra la fotosensibilità che è diamo delle indicazioni soggetti, generali prendendo spunto da Domenico, dottoressa Sparavigna. Domenica, grazie. Domenico, lei deve assolutamente proteggersi, anche perché deve sapere che la sua pelle registra il danno. Quindi il danno si manifesterà comunque, anche se lei non ha negli ultimi anni esagerato con il sole, però magari lo ha fatto a partire da quando era bambino e quindi la pelle con proprio un nastro magnetico registra tutto e a un certo punto presenta il conto. E quindi, perché la pelle non dimentica, quindi quando le persone, la regola generale è a chi si ritrova in una condizione simile a quella di Domenico e quindi nonostante le protezioni, le attenzioni e le cautele, tornando a esporci al sole, vede delle manifestazioni, Domenico ha descritto la sua, ma possono essere anche chiazze rosse, irritazione, è segno che la pelle è stata offesa ed è molto permalosa, la pelle non dimentica e torna a manifestare il suo disagio. Quindi protezione e tocca far così per cercare di salvare un po' capre cavolo. Dottoressa Sparavigna, negli ultimi minuti di trasmissione, andiamo al mare, sabato mattina ci esponiamo, mettiamo il nostro costume, le nostre ciabattine e andiamo. Che cosa si deve fare? Abbiamo scelto anche il solare per il nostro fototipo. Oggi è giovedì, quindi forse qualche cosa possiamo fare ancora. Assolutamente importante anche preparare la pelle, magari utilizzando degli esfolianti, magari utilizzando delle creme molto emollienti e idratanti. Quindi facciamo un leggero scrub, perché togliamo le cellule morte. Ma poi la idratiamo, perché la cute deve essere ben levigata prima di applicare il prodotto solare. E comunque prima di applicare il solare mettiamo un prodotto idratante. Questo è molto importante perché aiuta poi l'azione e anche la facilità proprio di distribuzione e di assorbimento del solare sull'epidermide. Perfetto, quindi scrub lo possiamo fare oggi, poi ci mettiamo la nostra crema idratante da corpo e poi ancora domani, giusto? Giovedì e venerdì. Sì, siamo a posto? Sì. Poi quando applichiamo il solare lo applichiamo almeno mezz'ora prima di uscire e lo applichiamo mezz'ora. Non con così il non costume. Si sente, sì, che poi c'è il solare, la sabbia, entra da tutte. Noi a casa ci mettiamo il solare, a casa in albergo, uscendo dalla macchina se andiamo, ci ricopriamo di solare. E poi dopo 20-30 minuti ci possiamo esporre al sole. Dottoressa Sparavigna, è necessario proprio avere un prodotto per il viso e uno per il corpo? No, questo si coniuga in base alle varie caratteristiche, ma se io ho una pelle normale anche sul viso, certamente potrò utilizzare lo stesso prodotto che utilizzo per il corpo. Così se invece sul viso ho delle che problematiche, certo. Senta, mi dica solamente la quantità, perché non è facile indovinarla. Quanta crema bisogna mettere per proteggere la pelle? Una noce, un'unghietta, Un cucchiaio da tavola per arto superiore, due cucchiai da tavola per arto inferiore e due cucchiai da tavola per il tronco. Questo può essere un modo per sapere di applicare la giusta quantità. Quindi andiamo insieme nella nostra borsa della spiaggia e mettiamo anche il cucchiaio, il cucchiaio da minestra. Man mano impariamo, perché poi è solamente per le prime volte, ma poi si capisce anche... Bastano per le prime volte. Infatti. Allora, se avete ancora delle domande scriveteci, tempesteremo la dottoressa Sparavigna, andiamo solamente da Fernando da Milano, che vuole raccontarci, spiegarci la regola dell'ombra, dicendoci che è molto semplice, vero Fernando, qual è? Buongiorno. Buongiorno, la regola è che non si deve esporre al sole quando la propria ombra è inferiore alla propria altezza. Perché in quei momenti lì perché in quei momenti il sole è perpendicolo, è più bravo, alto di quanto bravo Fernando, aspettarci. Mi dà tante soddisfazioni e noi le daremo una grande soddisfazione perché le manderemo un libro di Cuore di Denari. E nel frattempo Fernando, lei è già abbronzato? No, molto. Allora, non mi molto. Raccomando, un pochino. Io oggi faccio lo scrub, lo faccia anche lei, così ci penseremo, e poi sabato tutti al mare. Dottoressa Sparavigna, la ringrazio per essere stata con noi, le auguro grazie una buona giornata. Ringraziamo anche Fernando e noi insieme a Deborah torniamo puntualissimi domani alle 10.30 da Montepulciano. Siamo qua, vi aspettiamo, da Luci sul Lavoro, manifestazione proprio dedicata al mondo del lavoro, organizzata da Eidos, Italia Lavoro e dal Comune di Montepulciano. Un altro programma ricco vi aspetta. Buona giornata.